Ciò che un tempo era una prova, prima è diventato un indizio e poi un mezzo indizio, che come prova, è stato detto, vale zero. In questo breve tragitto tutto ideologico c'è anche il passaggio per qualcuno dall'ergastolo alla libertà. Lo stesso psicologo che sulla base di alcuni disegni si era detto certo della colpevolezza dell'imputato, oggi dice che quei disegni erano insufficienti perché avrebbero dovuto essere accompagnati da una perizia psichiatrica generale, come dire che se gli avessero dato più quattrini la diagnosi avrebbe potuto anche essere un'altra. Del fatto che i disegni poi erano risultati non essere neppure dell'imputato ovviamente si tace. Sarà bene mettersi in testa che nessuno è in grado di mantenere scorporato ciò che sta osservando dalle informazioni raccolte in precedenza e altrove, sia che faccia il poliziotto o il giudice, lo psicologo o l'insegnante. Mi è capitato di leggere in più occasioni i giudizi quadrimestrali riservati ai bambini figli di genitori separati. Ogni volta, da quel linguaggio informulito, ne ho tratto l'inquietante sensazione che il quadro sintomatologico precedesse di gran lunga gli eventi. Allo scombussolamento familiare automaticamente venivano attribuiti gli scombussolamenti scolastici, come se il rapporto di causa ed effetto fosse, psicologia alla mano, ineluttabile. Come una terribile profezia che si autodetermina, quel figlio di genitori separati diventa in 4-4-8 agli occhi dell'insegnante il quadro sintomatologico prescritto dalla psicologia e ideologia fini camuffate da scienza esatta. All'invadenza delle tecniche del controllo sociale l'innocente non può opporre nulla se non il progetto di una rivoluzione che sappia scovare alla radice il meccanismo dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ai migliori giudizi e dunque al più sereno futuro dei propri figli, i genitori separati hanno forse un lieve margine di iniziativa. Agli insegnanti possono non dirglielo. Scaricatigli l'occhio e la mente di teoria, possono ritrovare il piacere di un contatto più puro con i loro allievi. Allora ci guadagneranno gli uni e gli altri.